per aver, per aver. Spaccio musica. Un chilo nel baule. No. Per davvero. Cuscino senza piume. Per davvero. In giro tutto il giorno su. Per davvero. Sotto i palazzoni. Per davvero. E amo la tua scuola su. Per davvero. E ne fumo 5 all'ora su. Per davvero. Mia mamma non lavora, no. Per davvero. E farò una rapina. Per davvero. I fra fanno le bustine. Per davvero. E poi le vendono in cortile. No. Per davvero. Fanculo alla madame. Per davvero. Scippiamo una puttana. Sì. Per davvero. Io lo faccio per davvero. Io poliziotti abbiamo in comune una cosa sola. Che entrambi non siamo mai andati a scuola. Le ho detto guarda bene, sono un sex symbol. Lei dice se un criminale c'è una sex pistol. Ehi, non siamo ladri ma ti rubiamo la vita. Non ci sforziamo coi chili, passaggi di mano e via. Ho messo lato di 11, sempre future. Troppo avanti vado in tour con la macchina del future. Soldi per davvero, sold out per davvero. Sono scappato a un omicidio per davvero. Rabbiamo la tua donna ma non la tocchiamo. Le brucio i capelli così lei si schiaffeggia con la sua mano. Più soldi, più la situazione è problematica. Ma sono Einstein in matematica. Mi vedi, togliti il cappello e chiedi l'elemosina. Fanculo il tuo giornale, frate, io non scopo in macchina. Bello e dannato, ben nato, ma bannato in tele. Non nato nella Napoli, ben ho dato il meglio come il Napoli che vende Cavani. Ma quest'anno vado al massimo, come Vasco. Senza casco, copro i danni, casco. Amo il mio nemico, vorrei proprio aiutarlo. Sparali in testa, non voglio che soffra tanto. Piscio sull'Italia, se son fiori fumeranno. Trap come trappattoni, sono Donald Trump. Io la mi dona fra. Io testato su animali come L'Oreal. Testimonial Domo Pac. Marrakesh ora re dalla schiavitù. Fra e strati scali pur. La strada nella roccia tipo la mia crew. Tu trema come Kathmandu. Marrakesh. Kugan diceva alle zie. Drogati le compagnie. Se servisse la scuola piuttosto che droga avrei venduto enciclopedie. Palazzi anonimi, ovuli, nomadi. Pochi cognomi italiani e citofoni. Voi siete rapper da uomini e donne. Anzi uomini e uomini. La mia vita fra una diagonale su due assi cartesiane. E ovviamente sale, da bambino facevo l'orario di religione per le strade, non dalle salesiane. Sta generazione che è più povera di quella precedente. Tranne qui presente, accetta che sono un dio e poi rigetta le altre tue credenze. O accetta le conseguenze. Io lo faccio per davvero. Per davvero, io lo faccio per davvero. Per davvero, io lo faccio per davvero. Per davvero. Per davvero. Per davvero. Per davvero. Per davvero. Per davvero.